mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Вернусь не скоро. О, белла чао, белла чао, белла чао.